4C. Ascolta e rispondi. Va al cinema? No, non va al cinema. Va a teatro. Va in piazza? No, non va in piazza. Va alla stazione. Va a scuola oggi? No, non va a scuola oggi. Va a scuola domani. Andate al lavoro. No, non andiamo al lavoro. Andiamo a casa. Andate al bar? No, non andiamo al bar. Andiamo al ristorante. Andate in vacanza? No, non andiamo in vacanza. Andiamo in piscina.